alziamo le mani noi altri, soldati con saluti romani, rimanevano agghindati dei loro fucili e baionetti, e noi, marionette, garibaldini viaggianti, ineggianti, corici salpini, cantati padani in questo mondo di mani. Questo mondo di mani. Mani violente, ispirate, controllate di volontà napoleoniche, corrotte di viltà, prepotenti di purghe semitiche, poi si sa, al fine ebri avanzando, celebri delle nostre paure, tinti del nostro sangue, zozzi delle nostre torture, divenendo un po' anche noi carnefici. Macchinisti e operai, rossi assai, come Ponzi Pilati. Come Ponzi Pilati, il sangue pulsa nemico sulle nostre falangi arrossate, non viene via facile, scrittura indelebile. Scrittura indelebile. Scrittura indelebile. Lo si sa, i membri avanzano, celebri delle nostre paure, tinti del nostro corpo. Se sai come Ponzi Pilati. Il suo nemico, il sangue. Le nostre falangi rossate. Non viene via facile. Scrittura indelebile. Rossi assai, questo sangue, falangi arrossate. E di purghe semiche. Te lo ricordi PSI?